Siamo con il musicista Medeo Monda per parlare del progetto Trieste Meolo Roncade, che sarà in concerto a Cava di Roselle a Grosseto il prossimo 21 luglio. Amedeo, ben trovato. Vai, poi c'è Hola. anche, eccolo, c'è anche Massimo Ronconi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ah, quindi siete in due? Bene, bene. Cioè, ci abbiamo beccato tutti e due insieme. Allora, raccontiamo un po' questo progetto. Ascolta, sì, cioè sono dei loop che è un po' che li ho nella testa, cioè l'abbiamo un po' codificati insieme con Marco. Siamo una chitarra loop, un po' di fiati, un po' di giocattolini, scatolette per gli effetti, così, e una batteria, percussioncine varie, insomma. Esatto, Strumentali senza voce. sì, senza voce. Cioè, la voce al massimo può raddoppiare qualche melodia, ma insomma è tutto senza voce, sì, perché cioè, con le parole non devo dire più niente. Sì. È questa la verità. Senti, come vi siete incontrati? Come avete deciso poi di suonare insieme? Ascolta, in realtà ci conosciamo da un botto di tempo, da tipo superiori, penso, prime superiori, Di lunga data, insomma. sì, abbiamo sempre suonato, insomma, o per cavoli nostri, insomma, cioè, eravamo comunque una bella cricca di... In realtà è un mistero come è iniziato tutto, cioè, non c'è ricordo. Tutti e due suonate per conto vostro, avete due percorsi separati. Sì, cioè abbiamo diversa roba anche da singoli, sì. Sì. Siamo proprio una ricchetta, insomma, di amici, tutti quanti musicisti, in botte musicisti, a volte cioè sì, sono anche insieme. E con Marco è da un paio d'anni in realtà, c'avevo sti loop, glielo ho fatti sentire e ci siamo messi al lavoro un attimo, per cercare di capire se ne valeva la pena. Un po' di pazienza, sì, adesso mi sopporta perché... Io gli stravolgo i suoi pezzi. No, ma è tutto positivo, è tutto positivo. Quanti brani sono più o meno? Quelli effettivi penso una quindicina, cioè poi in cantiere ce ne sono dell'altri, insomma, solo che sono proprio dei loop. Medo Quindi è un vulcano, ne fa una al giorno, sì. No, cioè, proprio più che altro sono capito, sono situazioni sonore, cioè non so proprio dei brani effettivamente, cioè sono Ok. proprio, devi entrarci dentro poi quando sarete lì, insomma. Senti, musicalmente per dare dei riferimenti, che modelli si possono citare? Afro, jazz, flamenco, Cuba, Brasile, nonostante non sia stato in nessuno di questi posti, eh? Cioè, ma Documentari. sì, c'è un po' di tutto, cioè io poi mi sono avvicinato al flamenco da un annetto, quindi un po' di influenza ce l'ho messa dentro, tutte queste cose qua. Comunque è un po' un mistone di mondo. Ok. Parliamo anche un po' dei progetti su cui siete impegnati singolarmente adesso, in questo momento. Necessario, dici? No, così se state lavorando su qualcosa anche di altro. Marco, tu hai da dire qualcosa? Io sono da diversi anni con una marching band che si chiama Fantomatic Orchestra. Ah, ok. Insomma, una delle prime che è uscita in Italia insieme alla Funkoff. E beh, con loro giriamo in tutta Italia, anche in Europa, facciamo festival. E poi in realtà ho coinvolto anche Medo in un mio progetto che si chiama Drum Motor. Quello è figo. Che è un gruppo un po', diciamo, free jazz. Un po' funk anche con dei motori. Infatti l'ho preso e l'ho inserito in un set di motori. È stato figo perché è bravo pure lì, si sa come fa, però. Ok, Sono senti, allucinato, sì, sta figo comunque, sì. hai anche delle pagine Facebook, un sito internet per saperne di più? Io personalmente no, cioè ora mi è toccato fare la pagina del Trieste perché se no non potevo fare l'evento pubblico su Facebook. Ok. No, ho da lavorare ancora sui social per vedere Ok. ancora ancora non ho fatto niente, ma anche perché di materiale video abbiamo roba un po' scadente per adesso, quindi ora ci mettiamo un attimo sotto, vediamo di un disco anche. Ah, ok. La roba c'è e poi in strada ce lo chiedono, quindi... Quindi state puntando anche a una pubblicazione di un disco? Ma molto tranquillamente, cioè per prenderlo in strada o okay. Insomma per darlo ai festival, per partecipare ai festival, insomma molto tranquillamente, cioè niente di impegnativo, insomma, okay. Proprio... Cioè, sono molto per strada, no? Sì. Bello. Quanti elementi? E lì è un quartetto. Un quartetto, ok. Batteria, uh-huh. Motori, sassofono e sassofono baritono e il giradischi. Ok. Scherzo. Ok. E Amedeo invece? Senti, anche io c'ho un quartetto, l'orchestra Mattarella si chiama, cioè c'ho tipo una pizzica un po' rivisitata, ho influenze blues, funky, rock, insomma, cioè si parte dalla pizzica, ma c'è un po' di svisione poi attorno comunque. E da 3 anni ci sono con loro pure, sì. Sempre strada, parchi, locali, insomma un po' di tutto, tra matrimoni, marchette, il cash serve anche un bel po', insomma, per mandare avanti queste cose. Uno dice, poi comunque sia, senza soldi è duro anche mantenere, cioè, manutenzione dei gruppi, le cose, quindi devi fare pure matrimoni, proprio così, insomma, no, ci divertiamo tanto. Ok, te invece ce l'hai la pagina Facebook e c'è anche la pagina dell'evento di questo concerto. Sì, appunto, mi tocca farla l'evento pubblico perché altrimenti mi dava privato, quindi vabbè. Con la pagina non c'è assolutamente niente, cioè proprio è stata fatta per questo evento. Poi piano piano crescerà, insomma. Se qualcuno ci fa un po' di foto sabato sera o dei video, insomma ci mettiamo tutto. Ok, e allora ricordiamolo l'appuntamento con Trieste Meolo Roncade a Cava di Roselle a Grosseto il prossimo 21 luglio. Un saluto e un ringraziamento ad Amedeo e Marco, un abbraccio, a risentirci presto. Bella festa, ci vediamo là, dai. Dai, ok, ciao.